Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Cina, un database su base mondiale e un occhio di riguardo per l'Italia. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Who's afraid of Xi Jinping? I think the Chinese should perhaps get used to this level of scrutiny if they want to play as a great power. It is a very significant change in the intelligence norms being operated in China versus how they would be operated in other countries. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Buon lunedì da parte mia, Giampaolo Musumeci, e da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano. Sono le 16.08 in questo esatto istante e parte una nuova settimana in cui cercheremo di osservare e volgere lo sguardo al di fuori dei confini italiani, come quest'oggi è peraltro, solo che volgere lo sguardo lontano fino in Cina ci riporta inevitabilmente, inesorabilmente anche all'interno dei nostri confini. Tra pochissimo capirete perché. La squadra di Nessun Luogo, Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in regia c'è Roberta Fisani, anche quest'oggi hanno confezionato con me la puntata di Nessun Luogo è Lontano. I numeri invece del programma, anzi il numero 349-238-6666, sms e whatsapp, domande e commenti. I social, siamo su Facebook, Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24, siamo su Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Complice un team di agguerritissimi giornalisti e una fonte che rimarrà oscura per molto molto tempo, è venuto alla luce un gigantesco leak, un gigantesco database che mostra come una società privata in Cina abbia monitorato per anni sostanzialmente tutti i paesi del mondo, dall'Alaska alla Namibia, finendo in Zambia, attraverso alcune categorie specifiche. Naturalmente vi erano nomi di politici, nomi di giornalisti, magari familiari, ma tre paesi in questo gigantesco database hanno mostrato delle peculiarità e sono Messico, Giappone e Italia. Sì, perché alla categoria 3, che non tutti i paesi avevano, c'era quella degli appartenenti a organizzazioni criminali. In Italia, in Messico e in Giappone, chi ha svolto quel lavoro di intelligence aveva un occhio di riguardo anche per la criminalità organizzata italiana. Quanto è lecito fare intelligence in questo modo? Come si sta muovendo la Cina? Come si muovono gli altri paesi? Complice questa inchiesta, peraltro è uscita sul Foglio di questa mattina, ma è un team di giornalisti che a livello mondiale ha lavorato per mesi e mesi a questo gigantesco database. Quest'oggi, dicevo, ci porremo una serie di domande, non prima naturalmente di aver sfogliato i nostri dossier internazionali. Il primo ci porta in Libia, in particolare nella Libia, quella di Tobruk, quella della Cirenaica, quella di Bengasi, per due dossier differenti, ma che in qualche modo potrebbero anche legarsi nei prossimi giorni. Da un lato vi davamo conto la settimana scorsa di forti proteste della popolazione, soprattutto di Bengasi e di altre città, riguardo alla corruzione, all'inefficienza, alla mancanza di governo da parte appunto del governo e del Parlamento di Tobruk. Così poche ore fa Abdallah Al-Thani, il primo ministro del governo di interim che fa riferimento al Parlamento di Tobruk, ha rassegnato le dimissioni sue e di tutto il governo al presidente Aguila Saleh. Ricordiamo che anche durante il weekend sono esplose varie proteste persino nella città di Al-Marj, che è la roccaforte del generale Khalifa Haftar, generale peraltro quasi evaporato dai nostri schermi, dai nostri radar, ma come peraltro avevamo in qualche modo previsto. Proteste che i più attenti ricorderanno sono avvenute anche nella zona di Tripoli, la mancanza di energia, di acqua corrente, di luce elettrica. Però è chiaro che se avvengono in quella Libia non riconosciuta, in quel governo libico non riconosciuto dalla comunità internazionale, in qualche modo è gioco forza che anche l'immagine di quell'altra Libia si vada a rafforzare e si vada in qualche modo a offuscare quel tentativo irredentista della Libia dell'Est. Dicevo, legato a questo aspetto c'è innanzitutto una notizia che, se confermata, sarebbe una boccata d'ossigeno. Qua, scusate l'ossimoro, parliamo di ossigeno ma in realtà parliamo di petrolio, in termini economici evidentemente, una boccata d'ossigeno per la Libia tutta, perché secondo fonti dell'ambasciata statunitense Haftar sarebbe pronto a riaprire i rubinetti. Ricorderete, ormai il blocco del petrolio va avanti da mesi e mesi. E poi dicevo che sta prendendo dei contorni decisamente spiacevoli e sempre più preoccupanti la vicenda dei 18 marittimi che sono tenuti sotto sequestro proprio dalla guardia costiera di Bengasi. Sembra infatti che sarebbe emersa l'idea di scambiare i cittadini italiani con quattro libici arrestati nel 2015 a Catania, processati e condannati in via definitiva a 30 anni, l'accusa trafficanti di esseri umani nonché assassini. È stata una delle stragi più terribili nel Mediterraneo. L'inchiesta fu seguita dal procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, che peraltro all'idea di questa tesi ha detto è ripugnante l'idea che è stata propagata. Qual è l'idea? Beh, sostanzialmente che questi quattro uomini in realtà non fossero scafisti ma dei calciatori in erba che erano diretti in Germania per abbracciare appunto la carriera calcistica. A questo punto sembra che le autorità di Bengasi vogliono in qualche modo alzare il tiro e infarcire in maniera politica molto forte quello che è la vicenda dei 18 marittimi. Sapete, in questi casi la Farnesina invita sempre comunque a riserve e al silenzio, infatti non trapelano indiscrezioni. Le famiglie dei 18 marinai iniziano a stare un po' sul chi vive, vorrebbero avere notizie e lamentano un poco decisionismo da parte del governo. Naturalmente, se, dove e quando possibile, vi daremo conto degli sviluppi di questa vicenda. Intanto, Roberta Fisena, io ripeto, dobbiamo istituire il premio il polpastrello più veloce, perché al 349-238-6666 non riusciamo nemmeno a iniziare a sfogliare i nostri dossier, che ci sono gli ascoltatori più attenti che già scrivono, in particolare su quello che è quel terzo capitolo, quella terza categoria di nomi che questa società privata cinese teneva ad occhio nel nostro paese, cioè membri della criminalità organizzata. Tra pochissimo ve ne darò conto, è un scoop notevole quello che è uscito grazie al Foglio, ma anche al Telegraph e il Sunday Times in India, una joint venture, per usare un termine anglosassone, tra vari giornalisti di varie testate internazionali che per mesi hanno spulciato i dati cercando di capire esattamente che cosa cercasse questa società privata cinese, legata però direttamente al governo e all'intelligence cinese. Vi parlo però brevemente anche di Russia, perché è stato un weekend molto molto importante, 3 giorni di voto, test elettorale fondamentale in vista del rinnovo della Duma dell'anno prossimo, 35 milioni di russi al voto, 18 su 85 regioni hanno chiamato i loro cittadini a votare, ma vi sono anche state alcune elezioni amministrative. Perché 3 giorni? Evidentemente per evitare gli assembramenti. Perché è importante? Perché questa tornata elettorale, un test vero e proprio per Putin, avviene dopo che lo scorso 20 agosto, lo sapete, Alexei Navalny è stato avvelenato, e avviene dopo la contestatissima riforma costituzionale voluta da Putin. Ebbene, secondo i primi exit poll, il partito al governo, che è Russia Unita, da un lato è sulla buona strada, si è riconfermato in tante regioni, in tante amministrazioni. Dall'altra parte, proprio il partito di Navalny starebbe riportando importantissime vittorie in alcune città chiave. Sto pensando alla Siberia in particolare, come Novosibirsk, scusatemi, e Tomsk, che è un'importante città universitaria. Segno forse che la vicenda Navalny potrebbe aver anche indirizzato in maniera diversa il voto lì nel segreto dell'urna. L'altro dossier che è legato a doppio filo a quello russo è quello invece bielorusso, quindi da Mosca andiamo a Minsk. Nel weekend sono continuate le proteste contro Lukashenko. Ieri almeno 100.000 manifestanti hanno inondato le strade della capitale. Secondo la polizia di Minsk sono state arrestate 774 persone, di cui 500 solo a Minsk, e secondo fonti giornalistiche si è alzato il livello della violenza e della repressione da parte delle forze di sicurezza di Minsk. Proprio questa mattina intanto Lukashenko è volato a incontrare Putin a Sochi. Per il primo faccia a faccia, si erano già sentiti, ma il primo faccia a faccia fisico fra i due leader dopo l'inizio delle contestazioni, che ormai sono arrivate a sostanzialmente 5 settimane consecutive. Il Cremlino ha fatto sapere che i due leader affronteranno in queste ore aspetti del partenariato strategico, lo sapete, il settore energetico è importantissimo, commerciale e culturale. Putin ha detto: attenzione, ho unità di riserva dell'esercito russo pronte a intervenire se la situazione in Bielorussia dovesse diventare ingestibile. La settimana scorsa Lukashenko aveva dichiarato a un'intervista alla televisione di Stato, Russia TV, che se la Bielorussia cade, la Russia sarà la prossima, che è evidentemente, come dire, uno slogan che tende a richiamare l'attenzione sul piccolo paese, 8 milioni e mezzo di abitanti, così importante cerniera dalla Federazione Russa verso l'Europa, ma anche verso l'Ucraina. Staremo a vedere se Putin ha sempre detto: io sono pronto a intervenire se le proteste diventeranno violente. La piazza di Minsk è riuscita in 5 settimane a sostanzialmente non alzare mai un dito, a far sentire prepotentemente e potentemente la propria voce, ma senza cadere anche nelle tante provocazioni. E staremo a vedere. Questa, dal punto di vista strategico della piazza, è sicuramente vincente, però Mosca ci ha abituato a volte anche a reazioni improvvise e muscolari in paesi vicini, quindi non è assolutamente escluso che possa agire Vladimir Putin. Naturalmente gli esiti di questo importante incontro ve li daremo o nel proseguo della trasmissione oppure domani. E infine l'ultimissimo dossier riguarda la vita politica giapponese, perché Yoshihide Suga è pronto a diventare il primo ministro giapponese. Lo sapete, Shinzo Abe ha lasciato per motivi di salute. È stata un momento eclatante dal punto di vista della politica giapponese, non era mai accaduto. Suga ha vinto nella discussione parlamentare, 377 voti su 534, non è un giovane, è un politico di lungo corso, ha 71 anni, per anni è stato il principale portavoce proprio del governo di Shinzo Abe. Tantissime le sfide per lui. Shinzo Abe non è riuscito a fare la magia che lui si era riproposto, c'erano tanti punti che doveva portarsi a casa, medaglie da attaccarsi al petto, tra cui per esempio organizzare le Olimpiadi nel 2021, dicono in Giappone, Covid o non Covid, ci saranno lo stesso, e quindi questa sarà sicuramente la principale sfida. Oltre alla gestione stessa del Covid, il Giappone è un paese particolarmente vecchio, particolarmente anziano, e quindi ci sono larghe fasce della popolazione che sono particolarmente vulnerabili. Questi nostri dossier internazionali sono fatti e notizie che arrivano dai quattro angoli del globo, che diventeranno prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano, ma adesso entriamo nel vivo di questa puntata. Una storia di informazioni, di intelligence e soprattutto di Cina. In China, Big Brother is meeting Big Data. You kind of create this massive database, this kind of Home Depot warehouse of information on Americans employed by the US government. So this is not shame on China. This is shame on us for not protecting that kind of information. La società in questione si chiama Zhenhua, è attiva in Shenzhen, quella città di confine molto vicina a Hong Kong, sostanzialmente nella Silicon Valley cinese. È una società privata che da alcuni anni lavora sulle cosiddette open source, così dicono i tecnici, quelli che lavorano proprio su queste tematiche, cioè sono fonti aperte, sono dati, informazioni che si leggono dai giornali, per esempio, dai social network, ai quali noi da anni consegniamo una miriade di informazioni. Non soltanto Facebook, ma anche LinkedIn, Instagram. Pensate, da una foto quante informazioni si possono raccogliere. Evidentemente questa società si è anche basata su una serie di algoritmi particolarmente sofisticati. È successo allora che a un certo punto qualcuno ha parlato, qualcuno ha fatto uscire, come si dice, il leak, lo ha reso visibile. È un team di giornalisti con una guida sostanzialmente australiana, poi spiegheremo anche, se volete, le ambiguità in termini di opportunità, ecco, mettiamola così, che la guida fosse australiana, ma poi un team di vari giornalisti sparsi in giro per il mondo, per l'Italia c'era Giulia Pompili del Foglio, hanno provato a scavare meglio in quel database per cercare di osservare chi la Cina tenesse d'occhio appunto in Italia e soprattutto per quale motivo. Arrivano già i vostri messaggi al 349-238-6666 e tra pochissimo naturalmente ve ne darò conto. Fatemi ribadire quello che è uno degli aspetti più interessanti: tre categorie di nomi. Io e Antonio Tale siamo riusciti, grazie alla stessa Giulia Pompili del Foglio, a dare un'occhiata molto, molto breve a questo gigantesco database. Le classificazioni sono tre: i politici, le famiglie o il circolo degli amici riguardanti i politici, e poi alcune organizzazioni di membri criminali. Ma nel database italiano vi sono addirittura dei nomi di gente che era stata arrestata o sospettata di terrorismo, di essere collegata ad Al-Qaeda. Vi sono trafficanti di esseri umani, gente che apriva corridoi di migranti che arrivavano dall'Afghanistan o dal Pakistan, e non mancano naturalmente anche dei grandi boss, per esempio dell'Andrangheta, come Rocco Morabito. Molto molto interessante, quindi un lavoro che sicuramente è destinato a non soltanto a suscitare polemiche, ma ad aprire scenari. Buongiorno quindi e ben ritrovata, Nessun Luogo Lontano, Giulia Pompili. Giulia, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io ti chiedo intanto in massima sintesi di spiegarci qual è la valenza e il valore di questo gigantesco database che sostanzialmente va dall'Alaska allo Zambia, giusto per stare dalla A alla Z. Sì, la misura, la dimensione, diciamo, del database è incalcolabile, nel senso che io non sono riuscita a calcolarlo, e si parla di numeri veramente impressionanti. Nel piccolo, per fare una comparazione, diciamo, i numeri italiani sono veramente ridicoli rispetto a quelli collezionati in Inghilterra, America e India, per esempio. Sì. Sappiamo che la Cina già da molti anni dà un'estrema importanza a questa raccolta delle informazioni pubbliche incrociate attraverso i social network e tutto quello che viene pubblicato in rete. Nel 2017, con la legge sulla cybersicurezza, sì, tutti questi dati sono direttamente quasi accessibili dal governo di Pechino. In questo caso abbiamo un'azienda privata, la Tianhua, che con base a Shenzhen. Un giornalista, tra l'altro, del Globe and Mail canadese, che è basato lì in Asia, ha visitato la sede piuttosto piccola e così scarna per essere una startup che si occupa di intelligence e di OSINT, che è appunto il tipo di intelligence che si fa attraverso l'open source, quindi le informazioni disponibili in rete. Sì. Ecco, il fatto che sia una società privata dà qualche preoccupazione in più, soprattutto per il fatto che l'autoritarismo di Pechino rende il governo di Pechino in grado di accedere a qualsiasi tipo di dossieraggio, chiamiamo così. Sì. Quindi la riflessione poi ex post è, secondo me, questa qua, cioè quanto possiamo fidarci se i nostri dati, così tanti dati e così facilmente reperibili, sono tutti insieme analizzati dall'intelligence. Certo. Ora, noi non abbiamo la sicurezza che i servizi segreti di Pechino abbiano fisicamente, tecnicamente utilizzato questi dati o elaborato questi dati. Sappiamo che non sono solo dati automatici, cioè tirati fuori da un algoritmo, sì, ma è molto probabile che ci sia anche la mano di un team di esperti e di ricercatori che poi l'hanno elaborata e l'hanno analizzata e anche resa in qualche modo un po' più fruibile. Nelle parole di Giulia Pompili stiamo quasi scoperchiando un vaso di Pandora. Lo ricordo, la sua inchiesta ha dedicato gli ultimi mesi della sua attività lavorativa, assieme naturalmente a tanti colleghi, penne del Telegraph, Sunday Times, Indian Express, Globe and Mail, Australia Financial Review, eccetera. Nell'occhio del mirino di Giulia e dei suoi colleghi c'era questa società Genua, peraltro il sito è giù, e peraltro il link, il server dove avete depositato e fatto migrare i dati è stato buttato giù almeno un paio di volte proprio quest'oggi, Giulia, questo possiamo dirlo, no? Sì, perché ovviamente poi tutti questi dati, che sono grezzi, perché la Genua ha un software per leggerli, quello che invece su cui abbiamo lavorato noi sono come degli appunti messi a disposizione dei giornalisti, quindi senza poi la chiave di lettura è stato ancora più difficile cercare di capire. Confermo, perché con Antonio Tales ci siamo un po' rotti la testa, ci abbiamo perso poco, un paio d'ore, figurati, poco in confronto ai mesi che hai impiegato e durante i quali ti sei scervellato. Intanto devo fare un paio di sottolineature prima di andare in messaggi tanti degli ascoltatori al 349-238-6666, che sottolineano soprattutto le implicazioni politiche di questo lavoro. Ricordo, state ascoltando la voce di Giulia Pompili del Foglio, esperta di Estremo Oriente. Tra i politici naturalmente non potevano mancare anche attori economici, ci sono per esempio autorità portuali, giusto per dirne una, il che, attenzione, noi non sappiamo esattamente che cosa significhi essere attenzionati da questa società, né possiamo mettere mano sul fuoco che i dati siano stati passati ai servizi segreti cinesi. Però è interessante notare come l'Italia sia stata osservata ad ampio spretto. Però chiacchierando con te, Giulia, per esempio, venivano fuori degli interessanti paragoni. Il premier britannico Boris Johnson è radiografato praticamente a nudo, mentre la classe politica italiana sembra avere molti meno informazioni, molti meno dettagli, ed è anche difficile leggere questa differenza, questo sbilanciamento, no? Uno potrebbe dire acquisisco più informazioni sul governo britannico perché non ne so abbastanza, oppure ho più attenzione per il governo britannico e quindi acquisisco maggiori informazioni. Tra pochissimo ti ridò la parola. Prima però vi proporrei di andare a sentire la voce anche di Robert Potter, che è il cofondatore della società australiana di Cyber Security Internet 2.0 e ricercatore alla Tami University in Giappone. L'ho raggiunto Antonio Taglia e gli ha chiesto: quando vengono fuori casi di questo tipo, è anche legittimo che vengano fuori dubbi e sospetti, siccome Robert Potter è stato uno dei motori di questa attività investigativa e giornalistica, come avete avuto accesso a questo leak? È stato un whistleblower, un gruppo di attivisti, un gruppo di hacker o chi altro? Sentite tutto. L'origine di tutto è che ho ottenuto una copia di questo database attraverso il mio amico, il professor Christopher Boulding, che fino a poco tempo fa viveva in Vietnam. Abbiamo ottenuto una porzione dei dati perché questo database è molto molto grande e abbiamo iniziato a studiarlo per capire se fosse di particolare valore e se fosse effettivamente autentico, cosa della quale all'inizio non avevamo conferma. Così, studiando il database, abbiamo avuto l'opportunità di ricevere una copia completa. Il trasferimento è durato 4 giorni, solo per scaricare tutto sul nostro server. La versione finale che abbiamo ottenuto era davvero un enorme pasticcio. Non aveva una vera struttura e inoltre era in parte corrotta, sia per via delle sue dimensioni, sia perché probabilmente la persona o le persone che hanno copiato il database non lo avevano fatto molto bene. Abbiamo impiegato 3 mesi a ripristinare il database in modo che le persone coinvolte nel progetto potessero leggere i file e collegarli tra loro. Abbiamo effettuato dei controlli e verificato che corrispondesse a un database della Genoa. I metadata, gli indici, tutto corrispondeva. La stessa Genoa, sul proprio sito, era abbastanza esplicita sulle proprie attività. Così, dopo aver capito precisamente cosa avevamo tra le mani, abbiamo lavorato con una squadra di giornalisti molto capaci, da tutto il mondo, per pubblicare questa storia, perché ritenevamo che fosse una storia di interesse pubblico. Questa era la voce di Robert Potter, cofondatore di Cyber Security Internet 2.0, ricercatore alla Tami University in Giappone. È stato lui, grazie alla fonte che avete appena sentito, a mettere in moto questo lavoro di ricerca a cui ha partecipato per la parte italiana Giulia Pompili, giornalista del Foglio, quest'oggi in edicola i risultati della lunga inchiesta. Se ci sono voluti 4 giorni per far migrare i dati, ci sono voluti 6 mesi per cercare di raccapezzarsi in mezzo a questi dati. Un po' di ascoltatori: non è colpa dei cinesi se siamo così frivoli da geolocalizzarci, taggarci, divulgare ogni cosa per un like. Il problema non è chi spulcia tra i rifiuti, ma la nostra società che li crea. Così un ascoltatore che forse va dritto al punto. Viva la Cina, viva Huawei, e poi ci preoccupiamo per la privacy, poveri illusi, fa eco un altro ascoltatore. I fautori, entusiasti della globalizzazione, dicevano alla Cina ti è vicina, non immaginavano così tanto vicina, aggiunge qualche emoticon con risate e lacrime, basta espulsi dal WTO perché non rispettano le regole, non rispettano i diritti umani. Tra pochissimo torno a Giulia Pompili, vi invito a leggere il suo lungo pezzo sul Foglio di quest'oggi, perché apre una serie di inquietanti scenari che peraltro alcuni ascoltatori stanno già evocando. Noi facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come vanno le borse, poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun luogo, nessun luogo è lontano. La storia che vi raccontiamo quest'oggi trae linfa vitale e spina dorsale, per meglio dire, da una lunghissima inchiesta. Giulia Pompili, assieme ad altri giornalisti sparsi per il mondo, ha lavorato per mesi a quella che è a tutti gli effetti una fuga, un leak, una fuga di notizie di una società cinese, la Jinhua, che dalla provincia di Shenzhen, anzi dalla città di Shenzhen, raccoglieva dati praticamente su tutti i paesi del mondo, tra le categorie sostanzialmente politici, intesi anche come imprenditori, attori economici importanti, ma anche familiari, conoscenti e amici dei primi, e poi per alcuni paesi, tra in particolare Messico, Giappone e Italia, anche membri delle organizzazioni criminali, che naturalmente ci fa porre molte molte domande. Giulia Pompili, tra le domande c'era una sorta di numero, un codice a fianco a tutti i nomi sostanzialmente, un codice che poteva essere uno o due o tre. Siete riusciti a capire che cosa significa questo, quello che sembra a tutti gli effetti una sorta di punteggio? Sì, è come se poi l'intelligenza artificiale che mette insieme i nomi e quindi tutte le persone di interesse secondo la società, probabilmente anche secondo i committenti, se ce ne sono, come se qualcuno poi desse un valore alla persona specifica, all'individuo controllato. Possiamo fare solo delle supposizioni, ovviamente non abbiamo la certezza di come anche sul software di Jinhua poi questo score venisse visualizzato ogni volta che si tirava fuori, si cerca un nome o una figura, certo. Esatto. L'aspetto più interessante secondo me tutto quello che riguarda l'Italia, ma anche appunto il lavoro degli altri colleghi sugli altri paesi, è cercare di capire quali sono gli obiettivi mettendo in connessione, cioè dove l'agenzia, l'azienda ha posto più attenzione, e quindi evidentemente l'obiettivo di chi ha commissionato la ricerca o di chi ha iniziato la ricerca. Il fatto che in Italia i nomi siano più della metà dei nomi facciano parte della terza categoria, cioè quelli della criminalità organizzata o persone indagate o comunque con una fedina penale non pulita, significa che, come dicevi tu, in Italia, in Giappone e in Messico probabilmente la Cina ha qualche collegamento o comunque pone molta attenzione su quello che succede a livello nel sottobosco o nel mondo criminale. Certo, è anche vero, Giulia, e sul Giappone, vuol dire, mi insegni, sali tranquillamente in cattedra, il ruolo della Yakuza, della mafia giapponese, è di un certo tipo, così come il ruolo dei cartelli messicani, che sono a tutti gli effetti un parastato, vi sono una serie di infiltrazioni, di collusioni con i vari governatori federali. Forse sull'Italia sarebbe gravissimo ipotizzare lo stesso grado di connessione del mondo criminale rispetto a quello statale, no? Non sappiamo la connessione, sappiamo però che la Cina o comunque un'agenzia che i cui dati sono a disposizione almeno dal 2017 anche del governo cinese monitorava in maniera pedissequa tutte le attività criminali in Italia. Considera che di ogni nome, se tra i politici e i familiari dei politici e degli imprenditori, delle persone appunto di e interesse politico non abbiamo tantissimi commenti all'atere, sui criminali sulle persone appunto catalogate in questa terza lista, e quindi quelle con condannate per associazione mafiosa, sì, eccetera, abbiamo dei commenti all'atere che sono evidentemente scritti da una persona fisica attraverso delle parole chiave, quindi con l'esposizione immediata di dei tipi di reato, e questo è un aspetto molto interessante, certo, perché appunto se hai bisogno di cercare qualcuno che fa traffico di esseri umani, attraverso il database lo trovi immediatamente, molto, certo, prima che cercare qualcuno che non so, ha dei legami o conosce qualcuno in Confindustria, ecco. Certo, certo, e questo è un aspetto interessante. Poi naturalmente ribadisco e sottolineo a uso e consumo degli ascoltatori che essere attenzionati da questa società non significa niente, significa semplicemente che questa azienda ha messo gli occhi sull'Italia con una logica per noi assolutamente imprescrutabile. Non sappiamo naturalmente la motivazione, possiamo fare delle supposizioni, delle illazioni, non sappiamo nemmeno l'utilizzo che il governo cinese, nel caso fosse confermato, ha fatto o farà di questa mole di informazioni. Come alcuni ascoltatori poi sottolineano, da che mondo è mondo, in tutto il mondo si fa intelligence, soprattutto su fonti aperte. Quello che stupisce però in questo caso, lo ripeto e lo ha detto bene Giulia Pompili, è da un lato è una società privata che in qualche modo evidentemente o ha offerto i suoi servizi all'intelligence cinese o diversamente è stato il governo cinese che ha deciso di subappaltare, di esternalizzare una funzione che probabilmente avrebbe impegnato centinaia, forse migliaia di addetti dell'intelligence che avrebbero dovuto parlare tutte le lingue del mondo, insomma un processo particolarmente complesso. Grazie mille Giulia Pompili per essere stata con noi, ci ha dato un assaggio di questo lunghissimo lavoro che naturalmente invece voi potete leggere sul Foglio di quest'oggi. Giulia, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. E intanto al 349-238-6666 state alimentando il dibattito e le osservazioni sempre utili, sempre interessanti. Qualcuno dice: attenzione, la guerra delle informazioni è la guerra del futuro, ogni singolo dato è come un proiettile d'artiglieria che viene sparato. Qualcuno dice: gli ascoltatori ragionano al contrario. Qua fa riferimento all'ascoltatore che diceva, all'altro ascoltatore diceva, abbiamo regalato tutti i nostri dati ai social, poi non possiamo naturalmente lamentarsi. Io ho il diritto di taggarmi e geolocalizzarmi per le mie esigenze come voglio, sei tu che non devi spiarmi. E poi aggiunge un similare che però è condito, come dire, di termini che dovrei ripulire, quindi passo avanti, ma credo che insomma il concetto sia molto logico. Io ho la piena libertà di espormi e di cedere anche i miei dati, questa è l'idea dell'ascoltatore, voi però dovete usarli per bene. Non credo che il governo centrale cinese sia all'oscuro di questa ricerca privata, e uso il termine privata tra virgolette, un altro ascoltatore, ma è quello assolutamente che pensiamo noi. È impensabile che in Cina avvenga qualcosa di simile, non possiamo girare attorno a questo aspetto. Ma chi è stato che ha dato origine a tutto? Chi è stato quello whistleblower? Chi è stato quello che a un certo punto ha scoperchiato quello che a tutti gli effetti sembra un gigantesco vaso di Pandora? Vi faccio sentire ancora la voce di Robert Potter, che è il cofondatore della società australiana che fa cyber security, che si chiama Internet 2.0, è ricercatore alla Tama University in Giappone ed è un po' il motore di tutto questo incredibile lavoro a cui ha preso parte anche Giulia Pompili. Chi è stato a rivelare tutta questa mole di dati? Sentite. Io personalmente non ho avuto nulla a che fare con la fonte o con le fonti. Le abbiamo sempre mantenute molto separate dal resto per la loro sicurezza. Perché se questa persona o queste persone occupano un ruolo delicato, magari da qualche parte in Asia o direttamente in Cina o altrove, questo leak non è necessariamente qualcosa sul quale si è disposti a mettere la propria firma. Quindi Christopher Boulding ha impiantato un sistema abbastanza sicuro per fare in modo che ottenessimo tutti i dati nella migliore forma possibile. E ovviamente stiamo ancora proteggendo l'identità di questa persona o di queste persone e il loro diritto di non essere identificate. E questa è la voce di Potter. Intanto buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo è Lontano anche Adriano Soi, già prefetto, ora insegna Intelligence e Sicurezza Nazionale alla Scuola Cesare Alfieri, Università di Firenze. Prefetto Soi, buongiorno, ben ritrovato. per sentirla e per trovare i vostri ascoltatori. Prefetto Soi, che idea si è fatto di questa vicenda? Ha strabuzzato gli occhi oppure si è detto, beh, tutto normale, me l'aspettavo, in fondo si fa un po' in tutto il mondo questo processo? No, l'ultima cosa che si può fare è strabuzzare gli occhi. Questa attività è antica come l'intelligence. Una volta, uso il linguaggio degli anni 50-60, la si chiamava dossieraggio. Sì. Ma era la stessa cosa, era raccolta di informazioni su persone pubbliche o private. Che venga dalla Cina, beh, non può certo meravigliarci. Se noi pensiamo all'ampiezza, alla profondità, alla meticolosità, all'accuratezza dell'azione di penetrazione economica svolta dalla Cina negli ultimi 20 anni nei confronti della larga parte dell'Asia, della larga parte dell'Africa, di una parte dell'Europa, come facciamo a meravigliarci se da qualche parte in Cina qualcuno raccoglie informazioni su personaggi che a vario diverso titolo e con varie diverse incidenze sono però presenti nei paesi obiettivo? Certo, certo. Perché il mondo è mondo, se devo fare un'azione di penetrazione devo sostenerla con le informazioni. Ho sentito poi parte del dibattito, sì, che avete svolto prima che entrassi in collegamento, e in effetti che si tratti di una società privata più o meno collegata al pubblico cambia poco, sinceramente cambia poco. Questo è il primo affresco, la prima fotografia che ci consegna Adriano Soi, già prefetto, adesso insegna Intelligence e Sicurezza Nazionale alla Scuola Cesare Alfieri dell'Università di Firenze, è un attento osservatore e un profondo conoscitore del mondo dell'intelligence. Non è saltato sulla sedia quando ha sentito di questa notizia, però è anche vero, prefetto Soi, che alcune specificità questo gigantesco database ce le ha, e su queste vorrei tornare con lei subito dopo però aver ascoltato la fiabilità. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata del lunedì di Nessun Luogo Lontano apriamo la settimana con una lunghissima e approfondita inchiesta svolta da un team di giornalisti e di testate. Per l'Italia c'era Il Foglio, c'era Giulio Pompili, ma anche Telegraph, anche Times of India, tante testate in giro per il mondo che hanno nonché australiane ovviamente, che hanno provato a descrivere, a raccontare quello che è un gigantesco database che un'azienda privata di Shenzhen avrebbe messo in piedi, monitorando tutti i paesi del mondo, sostanzialmente i leader politici, gli attori economici e, nel caso di tre paesi, Messico, Giappone e Italia, anche le organizzazioni criminali. Con il prefetto Soi, che insegna Intelligence e Sicurezza Nazionale alla Cesare Alfieri dell'Università di Firenze, proviamo a sottolineare questa specificità, prefetto, perché le organizzazioni criminali ci sono anche in tanti altri paesi, penso per esempio alla Colombia, per citarne una. Perché secondo lei la Cina studia maggiormente rispetto ad altri paesi questi tre tipi di criminalità? Che segnale ci può dare questo aspetto, questo interesse, ecco? Io rovescerei il ragionamento. Per la Cina hanno interesse il Giappone, il Messico e l'Italia. Siccome in Giappone, Messico e Italia sono presenti organizzazioni criminali di levatura straordinaria, chi ha fatto questo lavoro in Cina ha ritenuto di dover approfondire anche questo aspetto. Non meraviglia, è la prima volta che lo vediamo, ma come dire, se per la verità noi qui non conosciamo a malapena la provenienza di questi dati, di queste informazioni, non conosciamo l'utilizzatore. Possiamo solo come dire, fare qualche ipotesi, se però si trattasse di come dire, di acquisire informazioni a sostegno di una qualche azione di penetrazione economica, dico questo perché è la prima ipotesi che viene facile fare, soprattutto mi pare di capire, almeno per da quello che ho letto, le poche notizie che ho letto sulla stampa, mi pare di capire che molti siano stati, come dire, molti di questi dati siano stati rilevati in relazione a procedimenti giudiziari, se non ho capito male, anche perché trattandosi anche per un conto. Ma sa, le vie, come dire, della penetrazione economica in un paese sono infinite, possono essere vie assolutamente lecite di mercato, possono essere anche meno liciti, allora perché non approfondire anche questa mappa del potere reale di un paese, ancorché potere criminale, illegale, delle mafie, le mafie italiane, la mafia messicana e quella giapponese sono, come dire, ai massimi livelli in questo settore nel mondo. Volevo, se mi permette, fare una considerazione, cioè da quel che ho capito questo enorme database contiene dati, contiene informazioni. Già metterlo insieme è un'operazione di grande importanza, perché apre la porta al passo successivo, e cioè fare delle analisi, o per meglio dire delle elaborazioni, che vengono dalla contestualizzazione di queste informazioni nel loro insieme o di loro sottoinsieme. Per questo mi è piaciuto quando lei prima ha utilizzato l'espressione un po' poco protocollare ma pertinente del subappalto, nel senso che possiamo pensare ad un utilizzatore finale che abbia da esternalizzato, la cito ancora una volta, questo incarico ad aziende esterne, riservandosi poi di fare il lavoro di intelligence vero e proprio sui dati organizzati e trovati, integrandoli con quelli sì intelligence di provenienza riservata. Questa è una certa risposta da fronte aperta, ma si può benissimo integrarne i risultati con le informazioni riservate in possesso dell'intelligence. Chiarissimo, state ascoltando la voce del prefetto Adriano Soi, esperto di intelligence, insegna questa materia, intelligence e sicurezza, alla scuola Cesare Alfieri, Università di Firenze. Un po' di messaggi degli ascoltatori, qualcuno dice: ma Trump non ha ancora parlato nel consorzio di giornali e giornalisti che hanno partecipato a questa inchiesta, c'è anche il Washington Post che esce in queste ore, Trump normalmente si sveglia e twitta a quest'ora, non l'ha ancora fatto, vedremo se ne approfitterà per battere sul grande nemico, sul grande antagonista. Un ascoltatore: non mi stupirei di ciò che è stato fatto sulle informazioni che sono state prese, ma mi stupisco di come dalla Cina siano potuti uscire. Questo è un tema, peraltro se avremo tempo vi faccio sentire ancora la voce di Potter, che ve lo anticipo, Potter è uno dei analisti australiani che ha dato il via a questa inchiesta, stanno facendo di tutto per tutelare le fonti, tanto che non si mettono nemmeno in contatto con loro, né e nemmeno ci provano, evidentemente. L'ultima domanda per il prefetto Soi, approfitto della sua esperienza, della sua competenza, forse per una domanda che alle sue orecchie può sembrare naif, se voglio sapere tutto di un politico italiano, di un imprenditore italiano, perché raccolgo anche informazioni sulla cerchia di amici, sui familiari, sui conoscenti, sulla vita privata? È davvero ogni dettaglio può essere un tassello fondamentale per l'utilizzo, che non sappiamo ancora quale sarà, per una funzione di intelligence? Sì, non c'è dubbio. I motivi per cui si amplia l'universo informativo attorno ad un soggetto che è stato avversario, no? Perché il nostro avversario informativo, possono essere più vari. Se conosco la trama dei rapporti familiari, amicali o professionali che si svolge attorno a lui, magari se ho difficoltà a trovare un approccio diretto, posso più facilmente trovarne uno, magari posso trovare un punto debole se mi interessa, e trovare un punto debole sul quale fare leva. Quindi anche le informazioni personali possono diventare dei vulnus, delle vulnerabilità, e che opportunamente le elaborate dagli analisti diventano poi delle leve formidabili per una penetrazione che per il momento naturalmente rimane oscura, rimane nell'ombra, e forse il lavoro del team di giornalisti cui facevo riferimento nei prossimi mesi aiuterà a svelare come la voce e la presenza di Adriano Soi, prefetto, docente di intelligence e sicurezza alla Cesare Alfieri, Università di Firenze, ci ha aiutato decisamente a capire meglio alcuni aspetti, alcuni fenomeni. Quindi grazie mille, prefetto, buona giornata e buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi. Ci sono molti messaggi al 349-238-6666, qualcuno minimizza l'aspetto di questa inchiesta, di questa mole di informazioni, qualcun altro che addirittura dice potrebbe essere una manovra pilotata dalla Cina per far capire che il grande fratello cinese ci osserva, sviare indagini più approfondite su altre operazioni, si chiede un ascoltatore. È chiaro che un tema come questo, aggiungo io, porta anche alla possibilità di fare fascinose illazioni. Lo ripeto, soltanto il tempo ci darà ragione, il lavoro dei colleghi che in maniera molto molto virtuosa sono riusciti a far uscire. Preme sottolineare una cosa: è evidente che nei tempi, nei momenti che viviamo, l'informazione è potere, e è ovvio, non dobbiamo saltare sulla sedia perché scopriamo che Pechino sta mettendo gli occhi sul mondo, ha messo gli occhi sul mondo e cerca informazioni. La domanda naturalmente resta: come le userà, quando le userà e se le userà.